Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti amici ascoltatori, oggi imbuchiamo la Palla Spicchi in trasferta perché siamo alla Fiera del Libro di Torino, città nella quale, ma di questo parleremo, il basket manca ormai da troppo tempo, quindi ampia la squadra di Radio 24, vicino a me in regia Filippo Aureggi. C'è Gigi Borghi in redazione a Milano, c'è Flavio Suardi in studio a Milano. Ciao Flavio, ci sei? Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno Flavio, c'è Coach Peterson naturalmente collegato con noi. Ciao Coach. Ciao amici sportivi. E vicino a me c'è un tuo playmaker, Coach. Visto che parliamo di libri, no? Il libro della pallacanestro italiana, una foto storica, quella del giocatore che alza la palla dopo aver vinto il campionato europeo a Nantes nell'83. Ciao Cagliere. Sono io, buongiorno. Ciao, coach. Come va? Benissimo. Non ci vediamo mai, non ci vediamo mai, non viene mai a Torino. Non... Coach, coach, la tua avventura con Charlie Cagliaris alla Virtus, raccontaci qualcosa. Guarda, innanzitutto, se noi siamo diventati una grande squadra, e quando Charlie è venuto da noi, lui è venuto da noi nel 75. Abbiamo vinto subito lo scudetto con Charlie che faceva il pick and roll, in poche parole, come le chiamano oggi, con Gigi Serafini a sinistra e Terry Driscoll a destra. Abbiamo vinto lo scudetto, poi due finali scudetto, poi io sono venuto a Roma e Charlie ha preso il vizio di vincere lo scudetto e vinto altri due e un altro finale. Sei anni a Bologna ha fatto sei finali, in poche parole. Naturalmente a Milano, non a Roma. A Roma è andato solo da avversario. Naturalmente sono invitati i nostri ascoltatori anche oggi, 800 24 00 24, restano i soliti contatti, messaggi sms 349 238 6666. Ho visto che siamo a Torino nell'università del libro in questo momento, vorrei parlare anche un attimo di libri con voi, perché tu parlavi di pick and roll, no? I tuoi disegni, il basket essenziale è un libro nel quale tutti gli allenatori o gli aspiranti allenatori prima o poi hanno messo il naso, non si scappa. Ma che è una cosa strana, fra l'altro è ancora in circolazione, perché la prima edizione è stata nel 79, dopo il mio primo anno a Milano, e quindi ne ha 30 anni questo libro ormai, era ristampato nell'86 e di nuovo nel 2003, e quindi io pensavo che sarebbe obsoleto, però non è solamente gli schemi, sono anche i disegni, la psicologia e le altre cose, però l'ultima volta che è stato stampato è stata la Libreria dello Sport qui a Milano a farlo, è ancora richiesta, e io penso che questi libri sono di grande aiuto per i giovani allenatori, quelli che non allenano magari in Serie A, ma che hanno bisogno di formare una loro filosofia, la parola che uso spesso, e sono certo che questo libro è un altro che ho fatto per la federazione che si chiama Il mio credo cestistico. Questi due qui hanno fatto un piccolo contributo. Charlie. Io volevo dire che i libri che sono usciti 30 anni fa e oltre sono ancora quelli forse che sono i più letti. Ricordo per esempio il libro di Taurisano, il primo libro Basketball Story, che forse nessuno ricorda, è ancora un libro attualissimo perché lo trovo molto, molto utile per i ragazzi che si avvicinano alla pallacanestro con i disegnini, per renderlo molto più facile. Vero coach? Charlie dice che nessuno ricorda Basketball Story, invece io me lo ricordo benissimo con i disegni, anche i buffi, ma soprattutto con il grande senso giornalistico che aveva Taurisano ai tempi. Cioè, lui non sapeva solamente scrivere di basket, sapeva scrivere un libro di basket, che è tutta un'altra storia, e renderlo simpatico, interessante, informativo, educativo. E tutto. Taurisano è stato davanti a tutti noi in questo. E se non sbaglio i disegni fumetti erano stati disegnati da Sales. Può anche darsi, sai. Allora, sì, questo mi giunge nuovo. Questo è un dato che non sapevo, ma non lo metto in dubbio. Loro erano molto vicini e due grandi cervelli del basket, come Charlie sa benissimo, perché Sales è stato con voi nelle Olimpiadi 80 e anche 83 agli europei. Cioè, una figura di un'importanza incredibile, e con la squadra, vice allenatore di Sandro Gamba. Flavio Suardi, cosa stai leggendo? In questo momento, per quanto riguarda, mi stai chiedendo di libri o mi stai chiedendo di altro? No, di libri, perché Super Basket lo so. Super Basket lo sai, guarda, devo dirti la verità, ho riscoperto, sono andato a riprendermi il libro del coach Peterson e quindi sono andato a l'avevo letto già diversi anni fa, sono andato a riaprirlo proprio perché in concomitanza con la fiera del libro di Torino mi è tornata la curiosità di leggerlo. Ogni tanto mi è capitato di leggere anche diverse volte quello che Ettore Messina ha scritto con un docente della Bocconi, in cui raccontava tutta una stagione, la stagione del grande slam della sua Virtus Bologna. Ecco, quello è stato un libro molto istruttivo, anche proprio dal punto di vista della vita di spogliatoio, direi. Devi studiare, mio caro. Adesso poi continuiamo a parlare di libri, naturalmente con enorme piacere, però qui c'è qualcun altro che ha scritto, sono stati i giudici che hanno chiuso ieri la stagione, la regular season, che si è aperta in ritardo con un ricorso, quello di Capodorlando, lo ricorderete. Si è chiusa con un ricorso in ritardo. Finalmente sappiamo qual è la classifica, sappiamo chi retrocede, sappiamo quando partiranno i playoff, partiranno in ritardo rispetto a quanto previsto. Ieri doveva essere stasera gara 1 della prima serie e invece si comincia lunedì. Coach, un bel casino anche questo finale. Guarda, non una gran figura per il basket. No, meno male è finito, mi dispiace ovviamente per la fortitudo, ma io voglio in questo. Forse la Fortitudo ovviamente ha visto la partita domenica persa in maniera rocambolesca e voleva anche far vedere ai loro tifosi che che lottavano fino in fondo. Capisco questo perfettamente, però non so cosa ne pensa Charlie, che è stato anche lui un general manager in Serie A a Torino. Io penso che ci siano 25, 30, 40% possibilità che la Fortitudo può tornare in Serie A in quest'estate, se una società magari in difficoltà economicamente chiude i battenti e loro tornano per precedenza. Cioè, Charlie cosa dice? Che loro possono alla fine della fiera forse rientrare? Per fare nomi e cognomi penso che si riferisca a Rieti. Yeah. Che Rieti, ma se Rieti sono tanti anni che in difficoltà e ogni anno risorge, credo che in quella città riusciranno a trovare i finanziamenti e i fondi necessari per poter andare avanti. Credo e spero, perché comunque sì. Perdere una società per mancanza di per problemi economici mi sembra abbastanza grave, ecco. Yeah. Sì, però è tanti anni, sono tanti anni, troppi anni che Rieti comunque ha di questi problemi, e se è impossibile risolverli, signori, bisogna seguire un'altra strada, perché altre stagioni come questa non sono ammissibili. Lo dice a me che io ero il general manager di Torino e a un certo punto con grande dispiacere abbiamo detto non riusciamo più ad andare avanti e piuttosto che non pagare i giocatori preferiamo non fare il campionato di Serie A. Come è giusto che sia, anche perché bisogna andare in questa direzione. Io credo che anche le riforme che soprattutto il Presidente Renzi vuole fare siano indirizzate in questa direzione, poi sulle modalità parliamone, però sono orientate in questa direzione perché così deve essere lo sport. Da registrare una frase di Sabatini, padrone della Virtus, che dice: per quanto mi riguarda, ha detto ieri, per quanto mi riguarda Rieti, classificata 14ª, è diventata patrimonio dell'UNESCO e del WWF. Se avrà problemi ad iscriversi al prossimo campionato di Serie A farò di tutto per salvarla piuttosto che consentire il ripescaggio della Fortitudo. Naturalmente queste sono frasi da derby. Però parlando di playoff, coach, Milano e Bologna, la Bologna di Sabatini, ci arrivano con una striscia di sconfitte. Bologna 5, squadra nella quale c'è qualche attrito. Credi che possano fare strada Milano e Virtus? Io ovviamente Virtus, cioè, secondo me, non so cosa pensa Charlie, che ha anche giocato a Treviso, lui, ma per me Treviso Virtus è 3-2 e non so. Io domani, lunedì sulla Gazzetta, ci saranno i miei famosi pronostici, sempre sbagliati, però ci provo lo stesso, in cui ho detto Benetton 3-2 solamente per fattore campo, però chiaro, se vince la Virtus nessuno si scandalizza. E ho detto anche Milano può battere Teramo, ti spiego perché. Milano più abituato al ritmo Coppa, cioè domenica, mercoledì, cioè ogni 2, 3, 4 giorni una partita. Teramo, domenica, non è abituata e adesso dovrà fare una partita ogni 2 giorni, ok? Con una squadra con solo 5 giocatori. Io non vedo come loro possono battere Milano. Poi è una buona squadra, Mos, Poeta, però secondo me la fatica, magari vincono la prima in casa, dopo sono veramente stanchi. Milano, che ruota 10 giocatori, riesce a vincere. Questa è la mia mini valutazione adesso. Sentiamo anche Charlie Caglieri, se poi Flavio Suardi se la pensano allo stesso modo, ma poi anche gli ascoltatori naturalmente. 800240024, ce ne sono già due. Uno è Giancarlo da Bologna, immagino che vorrà salutare Charlie Caglieri, se l'altro ricorda dalla provincia di Pavia. Charlie, ma guarda, io devo confessarti che ho seguito abbastanza poco il campionato quest'anno, quindi fare pronostici obiettivamente non me la sento, perché non ho abbastanza informazioni per valutare le squadre. Certamente il discorso Milano Teramo credo che sia un pronostico abbastanza preciso a favore di Milano, sì. Sono, come diceva prima coach Peterson, giocando così, ma era così ravvicinata. Oltretutto Milano appunto ha 10 giocatori che può ruotare. Invece Teramo un po' più corta. Flavio, ma io penso questo, che Treviso è in grado di, io credo che Treviso sia in grado di fare un colpo nella serie con la Virtus Bologna. Da questo punto di vista la penso come il coach. Sono abbastanza convinto che Milano, nonostante parta da un sesto posto, proprio per il discorso che faceva Dan Peterson prima, più abituata a giocare partite ravvicinate, sia anche abbastanza favorita in questo incrocio, e quindi direi che Milano da una parte e Treviso dall'altra saranno quelle che poi andranno ad affrontare presumibilmente Siena e Roma, insomma, perché credo che Siena Pesa e Roma Biella siano accoppiamenti difficilmente dal pronostico ribaltati, che difficilmente verrà ribaltato. Io, per quanto riguarda Biella, a parte che sono vicino col cuore e anche geograficamente. Tu hai giocato lì? Sì, io ho giocato quando avevo 17 anni. Abbiamo fatto allora la Serie B, perché allora c'era solo la Serie A e la Serie B. Poi a 19 anni abbiamo giocato, siamo stati promossi, eravamo una squadra di gente massimo 20-22 anni. Abbiamo fatto una Serie A contro il Simmental di Pieri e ovviamente siamo retrocessi. E dopo quella retrocessione, allora si chiamava Libertas Biella, la società si è sciolta per poi riprendere dopo tanti anni in questa maniera incredibile. Però ripeto, Biella attenzione, perché Biella attenzione, che in questo momento è, secondo me, lasciamo stare Siena che tanto non conta. Siena fa un campionato a parte. Siena gioca su un altro pianeta. Però è quella più in forma. Le ultime giornate di campionato hanno detto che Biella è anche una squadra molto bella da vedere. Coach, vorrei volarti ancora una battuta prima di salutarti. Okay. Playoff NBA che invece sono partiti regolari e vanno avanti regolarmente, si va a gara 7 da una parte e dall'altra, quindi Houston LA 3-3, Orlando Boston 3-3. Io sono un po' sorpreso. Preparate il caffè. Però complimenti a Houston, che senza McGrady, che forse è una cosa positiva alla fine della fiera, e soprattutto senza Yao Ming, che hanno fatto questo forzato questa settima partita, per me è un capolavoro e coach Rick Adelman merita tanti applausi. Ovviamente l'altra parte, Orlando con le spalle letteralmente al muro, ha trovato la forza di battere Boston e rimette la cosa a Boston Garden. E come sa Charlie benissimo, la partita in NBA, la settima, quindi Italia è stata sempre la terza o la quinta, adesso la settima per la finale quest'anno, è un'altra musica, è un'altra partita, è un altro sport totalmente. Come i playoff sono diversi dal campionato, la bella è diversa dai playoff, e quindi ci sarà aria veramente con poco ossigeno sia a Los Angeles che a Boston, ma penso che vinceranno. E poi la squadra che gioca in casa ha sempre tutta la pressione addosso, quindi alla grande. Parte sfavorita. Litri di caffè grande. E ci guardiamo gara 7 da una parte e dall'altra. Grazie coach, alla ciao prossima. Ciao, ciao, un abbraccio. Salve, okay? Arrivederci coach, ciao, anche ragazzi, lei. Ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo, io ho un sacco di messaggi tra l'altro. C'è chi scrive: Alessio da Treviso, già prima eravamo il quarto o quinto campionato in Europa per palazzetti, spettatori e movimento, dopo gli ultimi fatti e i ricorsi non scenderanno ancora. È un rischio, caro Alessio, è un rischio perché è stato certamente un autogol per il basket questo finale di stagione. Non dimentichiamo anche come la stagione era iniziata, un po' di credibilità di quella che restava è stata grattata via da questi fatti, non c'è dubbio. C'è chi scrive: Fabio, ho trovato molto discutibile antisportivo il ricorso della Fortitudo. Discutibile antisportivo non saprei, certamente la Fortitudo si è aggrappata agli specchi quando il risultato che il campo aveva definito era quello, era sostanzialmente un ricorso sull'operato degli arbitri, come sappiamo non si può fare. Continuate a mandare messaggi, 349-238-6666. Io voglio passare agli ascoltatori, a Giancarlo e a Bologna. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, comincio col dissentire categoricamente da quello che lei ha appena finito di dire, e cioè sì, che il ricorso era fondato sull'operato dell'arbitro. Non sono assolutamente d'accordo. E su cosa allora? Il ricorso era il gemello di quello che è stato dato con parere favorevole su Montegranaro, sul malfunzionamento dell'apparecchiatura. E questo dovreste dirlo molto chiaramente, perché il ricorso era assolutamente fondato. Che poi non si sia voluto prenderlo in esame, sia stata la disponibilità da parte della Fortitudo a non andare oltre per evitare un eccessivo trascinarsi della questione, e che questo possa magari essere riconosciuto con il ripescaggio della Fortitudo o magari essere a 18, è un altro paio di maniche. Però non è accettabile che da parte dei fonti di informazione a livello nazionale si dica: no, la Fortitudo si è arrampicata sugli specchi. E allora il ricorso che è stato accettato per Montegranaro nei confronti della Fortitudo, che cos'era? A me sembrano comunque due casi diversi. No, Carlo, scusami se intervengo. Lo sono assolutamente due casi diversi, perché comunque da questo punto di vista si eccepiva su due canestri che sono stati annullati alla Fortitudo. Uno di Scales, che poi le immagini hanno fatto vedere aveva ragione l'arbitro ad annullare, e uno addirittura nel quarto precedente di Malaventura. Quindi non c'entrava niente qui sul canestro di Scales. Non c'entrava niente qui il funzionamento del cronometro, almeno io poi la penso c'è, così. C'è la deposizione, posizione di Cerebuk che ha diretto la terna, e che ha confermato la precedente dichiarazione, ha detto che non c'è stato motivo di dubitare sul funzionamento di quel dispositivo, che poi il canestro di Scales non fosse valido. Poi discutiamo sul funzionamento del cronometro di Montegranaro, però le immagini televisive dimostravano già un secondo dopo quel canestro che lo stop lamp era acceso, e quindi il canestro non era valido. È chiaro che sono problemi che sarebbe bene risolvere una volta per tutte, e io mi auguro che ad esempio l'instant replay venga esteso non a certe partite, non ai playoff, non alla finale, ma all'intera stagione. Quando basta montare delle telecamere in tutti i campi, non credo che sia una spesa eccessiva per il movimento, credo però che sarebbe un grande salto per la credibilità del movimento intero. E il fatto che anche la stessa Fortitudo non credesse fino in fondo nella ammissibilità, nella fondatezza di questo ricorso, è dimostrato dal fatto che giustamente Sacrati ha deciso di non andare oltre su questa strada. È chiaro che dispiace vedere la Fortitudo in Lega 2, almeno a me dispiace moltissimo vedere la Fortitudo in Lega 2, però c'è chi ha già dimostrato, nomi e cognomi Varese, si può cadere in Lega 2, tornare in Lega 1, vincere lo scudetto e poi seguire altre strade. Quello che più mi preoccupa è la solidità della società Fortitudo, perché quello secondo me è il punto più importante, è il punto più dolente. Charlie, che ne pensi? Ma da quel che leggo, perché essendo fuori da pallacanestro non ho informazioni di prima mano, si parla di questo grosso debito che ha la Fortitudo, di questi problemi finanziari. Si dice che gli stipendi non fossero regolarmente pagati ogni mese, e questo, come dicevi tu, è sicuramente il problema più importante, molto più grave della retrocessione in A2, no? La retrocessione è comunque molto grave, soprattutto in una piazza come Bologna, una società come la Fortitudo. E infatti credo che a scusante la Fortitudo ha provato, e ci sono in ballo tanti soldi che il fattore sportivo forse a questo livello professionistico passa in secondo ordine. Speriamo che trovi una soluzione. Io ci ho anche giocato un anno, tantissimi anni fa, e quindi comunque ho anche la fortitudine nel cuore. No, poi la pallacanestro ha bisogno di quella città, ha bisogno di quel derby, ha bisogno della fortitudo al massimo livello. Ripeto, la retrocessione è grave, giustamente dice Charlie, però l'aspetto prioritario è la solidità della società, e in questo momento è lì che io credo gli stessi tifosi della fortitudo, che tra l'altro hanno organizzato una iniziativa bellissima, il retrocessione party, retrocession party il 22 maggio davanti al Paladozza, ci andrei anche io volentieri. La fossa è sempre stata la vera anima della Fortitudo, la vera grande forza della Fortitudo, infatti è grave perché retrocessa, però ha una tradizione alle spalle, ha un supporto di questi tifosi incredibili che sicuramente ritornerà in A1. Patrizio Lecco, buongiorno. Sì, ciao, mi hai preceduto prima quando parlavi delle regole. Il basket è un gioco di regole fondamentalmente, quindi è nell'ingegno umano cercare di trovare quel punto per evadere la regola. Io sono convinto che la federazione lavorerà quest'estate per trovare la soluzione, e l'anno prossimo avremo o delle regole nuove o qualche spiegazione affinché non succeda più quello che è successo quest'anno. Sono convinto che Merighi sta già lavorando in questi termini. E poi una piccola cosa, se mi è permesso, il basket di John Wooden, il libro che secondo me spiega nel meglio il basket. Alla pagina 5 c'è un decalogo non del basket, un decalogo di vita. Bravo Patrizio, hai fatto bene a segnalarlo. L'hai letto, Charlie? No, non ricordo di averlo letto. Quali sono queste regole? Ma al di là di questo, le regole ci sono in tutti gli sport. Il problema non è fare le regole, perché forse le regole ci sono, il problema è seguirle. Il problema vero dello sport italiano, e forse anche della nostra vita civile italiana, sono i controlli che mancano. Le regole ne abbiamo già abbastanza. Non c'è un paese che ha così tante leggi come l'Italia, anche sportive. Certo, infatti, però non c'è un paese dove non si fa una regola e si studia come eluderla. Fatta la legge, trovato l'inganno. È uno dei nostri problemi preferiti, no? No, però è indubbio il fatto che, insomma, questo dei cronometri, dei tabelloni, eccetera, sia stato un problema presente lungo tutta la stagione, che ha un po' segnato questa stagione. Certe volte succede, le stelle dicono così e si ripetono 3, 4, 5, 6 casi simili. Ma io non capisco perché nello sport professionistico ormai non si ricorra ai mezzi tecnologici, dalla pallacanestro al calcio. Calcio non sono d'accordo. Ma è così comodo, l'instant replay lo puoi fare. L'instant replay secondo me andrebbe esteso a tutte le partite, anche perché non ha senso, no? Per una questione di regolarità. Giochi perché, alcune perché partite. Perché nel calcio non si può mettere un sensore sulle linee. Quello sì. Sensore sulle linee di porta, sono d'accordo. Ognuno studia. Poi se parliamo di Moviola, però, un altro discorso. No, la Moviola, a parte che io la Moviola, bisogna dire che la Moviola non ti permette non ti fa vedere bene la velocità dell'azione, certo. E non ti dà la profondità, quindi tante volte è falsa, certo, è falsa, certo, perché certo. Una cosa è vedere occhio dal vivo e un'altra cosa è velocità normale, esatto. Ma è naturalmente così. Quello, Flavio, è tutta un'altra cosa, però i mezzi tecnologici potrebbero essere utilizzati senza, come dicevi prima tu, costi eccessivi. Senza costi eccessivi, non c'è dubbio. Flavio? Assolutamente, io credo che la soluzione sia quella di estendere l'istant replay anche durante la stagione, perché comunque quest'anno è stato dimostrato come in alcuni casi l'occhio dell'arbitro non basti più, anche perché è evidente che quando si gioca sul filo dei centesimi di secondo, dei decimi di secondo, è anche difficile andare a decidere. Quindi, avendolo a disposizione uno strumento del genere, ovviamente circoscritto a casi in cui può essere decisivo, perché altrimenti poi si fanno delle lungaggini che non fanno bene alla pallacanestro. Però io credo che sia abbastanza inevitabile questa estensione dell'instant replay. Sì, instant replay con come viene usato attualmente, senza introdurre nessuna variazione, nessuna novità, nulla di nuovo, semplicemente utilizzare questa tecnologia che, come sappiamo, già da qualche è stato assegnato uno scudetto, se vi ricordate, all'instant replay, quello vinto proprio dalla Fortitudo su Milano, con il famoso canestro di Ruben Douglas, a proposito di fotografie nel libro della pallacanestro italiana. Charlie. Lino Lardo credo che sia dopo in collegamento. Sì, dopo lo sentiamo. È stata Lino. La prima vittima dell'instant replay. Perché io ricordo benissimo che quella partita gli arbitri annullarono il canestro e poi dopo. Per quanto riguarda l'instant replay, invece, io penso che non dovrebbe essere l'arbitro. Non è bello vedere l'arbitro che va a vedere il monitor. Mm. Penso potrebbe esserci un ufficiale, un sì. arbitro, un quarto arbitro, un come esterno. Come nel rugby, un omino ha detto. Esatto. Perché l'arbitro che va a vedere il monitor, che tutta la pressione che ha addosso, dovrebbe essere un esterno tranquillo che decide. Che fa la sua valutazione e la comunica all'arbitro. Palla spicchi. Torniamo insieme sempre qui alla Fiera del Libro di Torino con il nostro ospite d'eccezione torinese, Charlie Caglieris, che è qui di fronte a me, Flavio Suardi in studio a Milano e. Al telefono con noi un altro signore molto legato a Torino e soprattutto un altro signore che ha fatto un miracolo, cioè Lino Lardo, allenatore di Rieti. Ciao Lino. Ciao a tutti. Ho sentito che c'è Charlie. Un saluto particolare. Ciao Lino, bravissimo. Ciao. Sei stato veramente un grande, perché oltre al fatto tecnico anche ha dimostrato di sapere gestire alla grande il gruppo, perché tenere i giocatori tutto l'anno in quelle condizioni. Bravo Lino. Grazie. Dove si trovano, Lino, le energie per un miracolo? Ma si trovano soprattutto attraverso quello che hai dentro. Io ho sempre cercato di trasmettere a loro e di tirar fuori loro cose che magari in questo mondo qui non dei valori che magari a volte si dimenticano, soprattutto il sentimento, la passione che hanno per giocare, e non farli ricordare invece tutte le problematiche legate agli stipendi e magari a tante altre cose che sono successe quest'anno. Io ho sempre detto a loro che se quest'anno avessero fatto un grandissimo risultato come quello che è stato ottenuto, sicuramente ne avrebbero giovato in futuro, ma soprattutto è uscito fuori quello che abbiamo cercato di fare in estate, di trovare dei giocatori, ma soprattutto delle persone con dei valori, e questo poi è venuto fuori quello che io di solito faccio con una squadra, cercare prima di tutto trovare un'amalgama e un gruppo con valori veri. Questo è venuto fuori, ma c'è stata anche la bravura dei ragazzi che sono migliorati. La cosa più bella è che perdendo pezzi per strada nei momenti difficili è venuto fuori che loro sono migliorati e sono migliorati tantissimo. Hanno permesso a questa squadra di salvarsi, perciò veramente via Prato, via Pasco, un pezzo per volta e tutti lì a dire adesso crolla Lino, ma se d'estate sei sempre in spiaggia Loana, cosa dici che hai fatto, hai lavorato, no? Sempre in spiaggia Loana. No, quest'estate ho fatto, spero, quest'estate hai fatto solo dei bagni. Spero di godermelo un po' tra un po'. No, è incredibile questo. Io volevo leggere due messaggi. Uno è questo: Rieti è incredibile che si sia salvata. Due punti di penalizzazione, giocatori mediocri che scappano. Lardo il migliore, Milano lo caccia dopo una finale. Questo è un messaggio anonimo che mi è arrivato. 349-238-6666. Instant replay sì, ma solo a discrezione degli arbitri, a numero limitato di richieste, scrive Marco. Lino, vorrei una tua valutazione. Tu con l'instant replay hai perso uno scudetto adesso. Non con l'instant replay, ma ti sei salvato dopo la baraonda regolamentare. No, certo è che tutto questo finale di stagione, così come l'avvio di questa stagione, ma non sia stato il massimo per la credibilità del basket. Sì, purtroppo ci siamo dovuti occupare anche di molte situazioni non propriamente legate al puro aspetto del gioco, ma vabbè, intanto bisogna dire che l'instant play per la prima volta nel campionato è stato proprio proposto durante la finale del mio scudetto, perciò devo dire tu sei la prima vittima, pensavo svenissi a sentire il nome instant replay. Perché però mi ricordo che gli arbitri in quel momento annullarono il canestro certo. Per quello che potevano posticipare una stagione o di una al di là di quello, sono d'accordo anch'io che se ci fosse la possibilità di poter usare l'instant replay a discrezione degli arbitri, però sempre così si potrebbero levare molti dubbi su delle situazioni legate veramente a centesimi di secondo, certo. così anche, ma soprattutto anche per la gente, per levare. Io mi ricordo che a Milano eravamo tutti in attesa, ma poi nel momento che si è verificato e l'arbitro ha visto che il canestro era buono, non c'è stato nessun dubbio di usarlo nella maniera giusta. Certo, nella maniera giusta e in maniera uniforme, dicevamo, su tutti i campi e per tutta la durata della stagione. In fondo si può, in fondo non sarebbe una spesa elevata. E poi ricordo quella sera a Milano, uno degli aspetti da ricordare fu proprio questo, no, che sottolinea Nino Nardo, cioè arbitri che vanno a vedere l'instant replay, pubblico muto in silenzio, certo, al forum tutto esaurito in silenzio, esplode la festa della Fortitudo, certo, le lacrime di Milano. Ma io, il clima fu, tra virgolette, bellissimo, e Lino Nardo lo sa bene. Io ricordo benissimo un fatto, anche se ne parla ancora adesso, della finale a Livorno, tra la squadra di Livorno e Milano, canestro di Forte, dove ci fu un canestro, tutti festeggiarono, Livorno era la prima volta che vinceva lo scudetto, e l'arbitro dopo 10 minuti negli spogliatoi è andato a comunicare che non era vero niente. Guarda che è tragico, oltretutto senza l'apporto dell'instant replay, quindi. Flavio, sai, adesso questo è un campionato dove comunque le società investono molto, proprio con una credibilità in più per il nostro campionato, che vuole comunque essere all'altezza dei migliori tornei europei. Io credo che questo sforzo, se tutti sono d'accordo, si potrebbe fare proprio per migliorare e dare l'opportunità a tutti che ancora di più si possa giocare con regolarità. Carlo, io stavo riflettendo su una cosa. Non sono d'accordissimo sul fatto che scriveva il nostro ascoltatore, cioè instant replay a sola discrezione degli arbitri. Io credo che sia uno strumento che anche gli allenatori abbiano il diritto di utilizzare in maniera molto circoscritta e magari con un numero limitato, però non chiuderei la discrezionalità soltanto all'arbitro. Non so, ecco, mi interessava sapere anche la vostra su questo punto di vista. Lino, che ne pensi? Ma io penso che come si sta, meno da quando c'è l'instant replay, appunto limitato ai playoff o alla Coppa Italia, possa andare bene. È chiaro che nel momento in cui sarà disponibile, speriamo, anche per tutte le partite di campionato, ci dovremo mettere lì d'accordo e capire come usarlo nei modi giusti, nei tempi giusti. Perciò sono d'accordo anch'io. È chiaro che non è che lo si può usare sempre, perciò intanto speriamo, sì, che possiamo arrivare ad averlo, e poi certo, credo che una soluzione si trovi. Io avrei anche un ascoltatore, vorrei parlare con lui. Tino, provincia di Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno. Dunque, volevo fare complimenti da tifoso della Fortitudo al signor Nardo, perché ha svolto un lavoro meraviglioso a Rieti, sì, nelle situazioni che si trovava. Veramente tanti complimenti e tanta stima. Due cose: sono d'accordo per l'instant replay introdotto nel campionato, perché va benissimo per risolvere le vergognose situazioni che si sono venute a creare quest'anno, e non voglio fare della polemica, perché la Fortitudo ha pagato quello che ha seminato, quindi, e da tifoso Fortitudo mi dispiace, perché è più di 30 anni che vado a vederla e veramente sono veramente amareggiato per il comportamento della società, dei giocatori, tante cose che si sono venute a creare. E Senza stigmatizzarla, cioè la Fortitudo è stata una stagione nata sotto una pessima stella e così continuata. Sono stati fatti un mucchio di errori tecnici, di scelte. E tutto è finito così. Sarebbe riduttivo andare a dire la Fortitudo retrocessa per quel canestro di Scales che non era valido, e infatti non è stato convalidato perché il cronometro di Tirano non funzionava, eccetera, eccetera. Quello è nascondersi dietro un dito. La Fortitudo paga con la retrocessione una stagione disgraziata, come può capitare? Prego, Tino. Cioè, secondo voi è possibile, diciamo, a livello europeo fare un campionato stile NBA, cioè visto i problemi economici che hanno tantissime società, eventualmente globalizzare, diciamo, un campionato europeo, però con un livello, insomma, di più squadre, tipo Eurolega, così, ma a livello, non so, un po' più grande, ma con squadre che meritano di stare dentro perché presentano dei bilanci a posto, con delle strutture adeguate e con degli arbitri magari professionisti anche, e tenere i campionati a livello minore, come succede magari in America, per tipo V-Buy, per far crescere dei giocatori a portare in questo tipo di campionato qua, visto che ormai io credo che il sistema delle coppe, che credo che il sistema dell'Eurolega e delle coppe del basket così come è strutturato adesso vada già bene, insomma, pensare ad un'altra Superlega a livello europeo mi sembra tanto, piuttosto bisogna invece adeguare sulla base dei parametri a cui lei fa riferimento il nostro campionato. Lino, sì, esatto. Che ne pensi? Ma io penso che l'Eurolega di adesso dia la garanzia di un grandissimo torneo a livello europeo, dove le maggiori squadre europee partecipano. Poi è un progetto grandissimo quello che sta dicendo l'ascoltatore della Superlega. Io per il resto è chiaro che bisogna dare con regolamenti precisi l'opportunità di giocare il nostro campionato solamente veramente le società che ne hanno le possibilità, perché sì. Se no ci trasciniamo delle situazioni che non vanno bene per il movimento, non vanno bene per chi ci lavora dentro, e delle sofferenze che non portano a niente, perciò veramente certo. Dare l'opportunità solamente con dei regolamenti chiari alle società che ne hanno le possibilità e offrano garanzie per poter disputare un campionato serio come quello della Serie A, ecco. Certo, grazie Lino, di nuovo complimenti. Charlie, grazie, vuoi salutarlo? A voi, ciao a tutti. Ciao Lino, ci vediamo poi al mare. Tutti a Loano. Grazie a Lino Lardo. Palla spicchi. C'è ancora una considerazione di Charlie Caglieri sul discorso che stavamo ora facendo innescato dall'ascoltatore Superlega o campionato con diverso formato. Secondo me il campionato in Italia va bene così com'è, e ripeto, va bene così com'è perché per esempio questa settimana c'è Claudio Rimardi, direttore di Superbasket, che apre il suo numero con il suo editoriale Showtime, la perversione della retrocessione. Ma cosa c'è di così divertente? Domanda e si domanda Claudio Rimardi. Secondo me in Italia il fatto della mobilità, diciamo così, tra i campionati è determinante, perché siamo italiani e alle amichevoli non ci rassegniamo mai, quindi è giusto che ci sia questo pathos, è giusto che ci sia questa tensione. È al limite giusto, entro certi limiti, che ci siano certe polemiche. Che ne pensi, Charlie? Ma certamente ne parlavamo prima, e al tifoso italiano piace anche questo, è un campanilista, gli piacciono queste si appassiona di più alla sfida Pesaro-Bologna piuttosto che Bologna-Berlino, ecco. Sì. Noi siamo ancora legati al cose. Campanile, non e quindi l'unica cosa è che, appunto, come dicevo prima, trovare un sistema per il quale chi inizia il campionato garantisca di avere le risorse economiche per poter arrivare alla fine. Su questo certamente bisogna lavorare, ma Renzi sta lavorando, il Presidente della Lega sta lavorando, insomma bisogna arrivare ad un sistema ancora più certamente. Noi più a Torino abbiamo smesso di fare la Serie A 15 anni fa e si parlava di questi problemi. Ripeto, noi molto onestamente ci siamo chiamati fuori senza neanche vendere i diritti ad altre società, però l'importante sono i controlli. Dunque adesso vogliamo negli Stati Uniti da Simone Sandri. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Prima abbiamo così tratteggiato con Coach Peterson queste due gara 7 che ci costringeranno a un'overdose di caffè, almeno dalle nostre parti. Però chi se ne perde, onestamente? Gara 7 Lakers-Houston e gara 7 Boston-Orlando. Sì. Quali saranno le avversarie di Cleveland e Denver? È una bellissima domanda. Sicuramente ad ovest io avrei scommesso la casa che i Lakers avrebbero viaggiato proprio col pilota automatico dopo l'infortunio di Yao Ming. Mi sono sbagliato clamorosamente, perché i Lakers si stanno dimostrando veramente Dr. Jack e Mr. Hyde, perché hanno giocato la grande gara 5 ma hanno fatto una prestazione imbarazzante a Houston ieri sera, per cui è veramente difficile pensare che possano ripetere una prestazione così disastrosa, soprattutto perché una squadra che ha così tanti centimetri di vantaggio sotto canestro, potendo vantare i vari Gasol, Bynum e Odom, marcati da uno Scola straordinario che gioca forse un metro più alto di quello che è, però non può durare anche in gara 7, non lo so, non mi stupisco più di nulla. Per quanto riguarda invece Orlando Boston, è veramente, è come in America si dice, coin toss, cioè tiriamo la monetina, perché sono state sei partite tiratissime, tutte tiratissime, decise poi nel finale, per cui può succedere di tutto, e credo che anche il vantaggio del fattore campo in quel caso sia abbastanza relativo. Praticamente non ti ho detto nulla in questo minuto. Come si fa a dire qualcosa? E io non ti ho chiesto nulla, caro Simone. Indice di gradimento degli Stati Uniti per questi playoff NBA? Molto alto, perché si sono viste cose molto che piacciono tanto agli americani. Si sono visti le grandi stelle, soprattutto LeBron James, fare cose da campione, da MVP. Però si sono viste anche delle partite tiratissime, e al primo turno non è così semplice, così comune vedere delle partite così tirate. La serie Boston-Chicago è stata attezzata come una delle più belle serie di primo turno della storia della NBA. Credo che sia stata una serie assolutamente straordinaria. Questa con Orlando è un'altra serie molto divertente, e incredibilmente Houston-Los Angeles sta diventando inaspettatamente una serie straordinaria, fatta anche di tanti errori, di tante di anche partite un po' particolari, dove sicuramente nessuno avrebbe mai previsto i Lakers così fuori dal match già dopo un quarto, per cui veramente sta sorprendendo molto questo playoff, questa postseason. Grazie Simone, alla prossima. Grazie a te Carlo. A presto con Simone e Sandri. Charlie, perché tifi nel basket NBA? Chi ti piace? Qual è la squadra che ti piace nel basket NBA? Ma io tifo Boston, la nostra generazione è vissuta nel mito Larry Bird. Larry Bird, e quindi io anche ho visto Bocchiusi quindi Bill Russell. No, io quindi tifo simpatizzo anch'io Boston. Simpatizzo in queste. Io tifo i Knicks, ma ai playoff non ci arrivano da una vita. Poi Flavio Suardi è Los Angeles, quindi. Sì, io sono molto preoccupato, ti dirò, perché non mi aspettavo, dopo aver vinto di 40 punti praticamente gara 4, non mi sarei mai aspettato di perdere anche di gara 5 non mi sarei mai aspettato di perdere in quel modo gara 6, assolutamente. Quindi sono abbastanza preoccupato e sto abbottonato. Cioè, Los Angeles dipende moltissimo da Kobe Bryant. Se lui quella sera ha problemi, se ha problemi, hanno problemi tutti i Lakers. Sì, infatti dico se, no, ma dipende molto, le squadre che dipendono molto da un giocatore sono imprevedibili, non sai mai come va a finire. Charlie, quando torna al basket a Torino? Il grande basket, naturalmente. Bella domanda. Ogni tanto anche sui giornali locali viene fuori questa domanda, mi intervistano perché sono rimasto l'unico giocatore di basket che vive a Torino. Non lo so. A Torino, intanto per fare, abbiamo visto, per fare l'attività ad alto livello ci vogliono molti soldi. A Torino è una situazione particolare dove gli imprenditori non si sono mai appassionati veramente alla pallacanestro, e quindi anche se dopo le Olimpiadi abbiamo una città con quattro palazzetti bellissimi adatti alla pallacanestro, penso che per un po' Torino sarà fuori dal basket. A meno che c'è una possibilità che questi impianti vengano presi in gestione da quella famosa società americana che gestisce i palazzetti, la quale potrebbe avere interesse a portare e riempire i palazzi qui a Torino. A proposito di americani, adesso vi do per chiudere un aggiornamento sul Giro d'Italia dopo la sigla. Voci dal Giro. Dunque, oggi il Giro d'Italia torna in Italia dopo la scampagnata in Austria. C'è una fuga in atto, una fuga di uomini non di classifica che hanno circa 4 minuti di vantaggio sul gruppo dei migliori. Collegato con noi Pier Augusto Staggi per un flash velocissimo. Che sta succedendo alla corsa di oggi, Pier Augusto? Intanto siamo sotto una pioggia torrenziale, i corridori hanno percorso 145 chilometri, ne mancano quindi un centinaio al traguardo di Chiavenna. Sono quattro uomini nel comando con Facci all'interno di questa fuga, hanno 4 minuti e mezzo come hai detto tu, e quindi sì, adesso si aspetta soprattutto la picchiata attraverso Chiavè nella lunga discesa, e questa mattina lasciava un po' in apprensione Ivan Basso, perché non è un drago, soprattutto in discesa, in modo particolare quando c'è la pioggia, quindi potrebbe qualcuno approfittarne, tipo Damiano Cunego o Gilberto Simoni, che sono due corridori che devono recuperare terreno perso in montagna, e ne proveranno tutti, proveranno in questo caso ad attaccare anche in discesa. E più tardi vi raccontiamo cosa avranno combinato, naturalmente l'arrivo in diretta nei nostri programmi e lo speciale nel GR, dopo il GR del 19. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Sabato 16 e domenica 17. Benissimo, noi torniamo giusto per i saluti, per ringraziare Charlie Caglieris, con cui adesso andremo a cercare un po' di libri di sport qui alla Fiera del Libro di Torino. Cosa dici, Charlie? Ci facciamo un giro? Certamente, è un'occasione incredibile. Qui abbiamo solo da scegliere. Magari riusciamo a trovare qualcosa per Flavio Suardi. Grazie Flavio. Vi ringrazio, aspetto volentieri il vostro regalo. Benissimo, grazie anche a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Filippo Aureggi in regia qui vicino a me a Torino, Fabio Cantadori in regia a Milano. Lo sport naturalmente torna domani pomeriggio dalle 17 alle 18 e vi racconteremo, credo, il weekend degli scudetti. Ci sentiamo domani.